vorrei che lasciasse libere la parte come un frutto dentro l'orto. E se ci cambierà la vita non mi toglierà la voglia. Non voglio il cielo, c'è. come gocce sulla pelle. Vorrei vederti ancora in strada, a immaginare un'altra fiaba. Dove sei? Cosa hai? Figlio della sera, com'è bella l'avventura. Cuore innamorato, dimmi tu cos'è un peccato. Vorrei vederti colorare una storia da poter cantare. Dove sei? Cosa lasciando mai cadere l'anima. tu come sarai. Tenera immagine, tenero vecchio caro, tu immenso sei, col cuore tendine del mondo intorno a te. E ancora qui, immenso tu, ti do la mano ai miei dei, la vita tu, solo tu. Solo il suono questa sera fredda di dicembre. Non potrò restare ferma in questa stanza d'ombre. Soffrire questa notte per te che non sei più sicuro di me. Questa nave va sempre a fondo nel ricordo. Resta qui, dentro queste mura, se ti muovi quasi te ne vai. Cambiami, cambia tu la mia paura, e se ci provi ci sarò. Ce l'ho, l'arma più sicura, la solo per te e tu mi vuoi. Ecco sono qua, docile per te. Stenditi, prendi i miei momenti, la sola per te. Troverai pane per i denti, è un po'. se ce l'hai. Ecco sono qua, libera per te. Dai, vieni qui, sorridi che vuoi. Continua così l'amore che mi fai. Oh, stai, resta qui, disperdersi no. Uno vivo di sicuro c'è. Guardami come guardi fuori. Quando vuoi pensare non a me, ecco sono qua. conflitto è letto. Come mai morivi e non l'hai detto? Lascia qui se puoi tutta la tristezza che era dentro te. Adesso sai che quello che volevi tu era qualcosa in più di un sogno di cristallo che se lo spingi troppo in là in mille pezzi va. Hai visto sopra lei un cielo di cristallo. Se la chiusa il sole lo sai che te la colpirai. Perciò attenzione che non cada. Altrui e per la sua nonna.